Hunter Biden, il New York Post, la Cina e il signor Martin Aspen. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The mayor of Moscow's wife gave your son $3.5 million. What did he do to deserve it? Being the subject of Donald Trump's ire is a feather in my cap. It's not something that I go to bed nervous about at night at all. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Anche quest'oggi con tutta la squadra andiamo a volgere lo sguardo al di fuori dei confini italiani per capire cosa accade nel mondo. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Tenullo, Giulia Cannizzaro. In regia c'è Valeria Bernardi, anche quest'oggi vi accompagneranno in questo viaggio. Abbiamo bisogno anche di voi, delle vostre domande, dei vostri commenti. 349-238-6666, SMS e WhatsApp, Facebook, Nessun Luogo Lontano - Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. In questa puntata di Nessun Luogo è Lontano puntiamo i riflettori su Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca, in particolare analizzando due dossier. Uno mi è stato a gran voce chiesto da tanti di voi ascoltatori: tornate a parlare di quel computer che finì in un negozio di riparazione in Delaware e che ha scoperchiato quelli che sono gli affari della famiglia Biden in Ucraina. Proveremo a rifare il punto su quel dossier, ma soprattutto vi parleremo di un'altra vicenda che ha dei contorni particolarmente fumosi, ma che forse è il dossier che potrebbe, a 4 giorni dalle elezioni, costituire una vera e propria tegola sul candidato democratico Biden. 349-238-6666 per voi, noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta in Francia, ancora una volta, per quelli che sono gli esiti della tragedia che vi abbiamo raccontato ieri. Novità dal punto di vista giudiziario, perché la polizia di Nizza sta interrogando un uomo di 47 anni che sarebbe stato in contatto poche ore prima dell'attacco con l'attentatore della Basilica di Notre Dame. L'uomo è stato arrestato nella tarda serata di ieri, mentre ormai sembra nota l'identità dell'attentatore, che rimane in gravi condizioni all'ospedale di Nizza. Brahim Massaou, 21enne, origine tunisina, arrivato a Lampedusa, registrato a Bari. Non è ancora chiaro quando e come sia transitato in Francia. Dico che è nota l'identità e dovrebbe essere nota l'identità, perché l'unico documento in possesso dell'uomo era un documento rilasciato dalla Croce Rossa. E come avete sentito anche dal GR, Emmanuel Macron ha innalzato il livello di sicurezza non soltanto in Francia, ma anche, avete sentito le notizie che arrivavano dal Pakistan, anche per tutti gli espatriati francesi che sono in giro per il mondo. Mentre sale anche il numero dell'operazione Sentinel, che sostanzialmente impiega militari francesi per le strade francesi, appunto, da 4.000 a 7.000. Il tutto evidentemente per cercare di attuare quel meccanismo di deterrenza che in questi casi in tanti si domandano se possa funzionare o meno. Dalla Francia andiamo in Nigeria per darvi alcuni aggiornamenti su un tema e un dossier che abbiamo seguito parecchio qui Nessun Luogo Lontano, che è il tema delle proteste della società nigeriana verso la polizia. Il tutto, lo ricorderete, iniziò con l'hashtag #EndSARS, quell'unità speciale delle forze di sicurezza nigeriane che si occupavano appunto dell'antirapina. Si erano macchiate di particolari vessazioni, violenze, crimini a tutti gli effetti, e così il presidente Buhari ha deciso di smantellare l'unità d'élite. Ma le proteste sono andate avanti e hanno assunto connotati molto molto più ampi. Si tuona contro il livello di corruzione del paese, contro l'assoluta mancanza di lavoro, contro la disparità economica che vede per esempio un sud potenzialmente molto ricco grazie alla presenza del petrolio, un nord molto molto povero e con intere fasce della società che sostanzialmente non hanno quello che noi definiremmo uno stato sociale. Intanto però la polizia nigeriana ha reso noto che nelle ultime settimane 22 agenti sono rimasti uccisi, 205 commissariati sono stati distrutti nelle proteste che stanno continuando a scuotere il paese. Almeno 56 civili hanno perso la vita, e questo invece a denunciarlo è Amnesty International. Un'ultima notizia ci porta in India, o meglio in Kashmir. Tre giovani esponenti del partito indù nazionalista BJP, che è la formazione del premier Narendra Modi, sono stati uccisi ieri notte in un agguato nel distretto di Kulgam, nel Kashmir indiano. È un po' di settimane, di mesi direi, che non riaccendiamo i riflettori su quell'area del mondo totalmente dimenticata e su cui il pugno duro di Narendra Modi si è scatenato, in particolar modo dall'anno scorso in poi. L'attentato è stato rivendicato dal Resistance Front, che è ritenuto un gruppo ombra della formazione indipendentista Kashmira Lashkar-e-Taiba. L'agguato è avvenuto a pochi giorni di distanza dal varo delle nuove norme che consentono a tutti gli indiani di diventare proprietari di terre nella regione contesa, e questo, secondo molti analisti, sì, attuerebbe quella che è nei piani di Narendra Modi, una vera e propria sostituzione etnica della regione, andando a cercare di bilanciare quella che è proprio la demografia presente nella regione stessa. E sono certo che a brevissimo realizzeremo uno speciale, un approfondimento sulla regione del Kashmir. Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666. Tornano su quella che è la questione Islam, Francia, Turchia, gli attentati. Abbiamo fatto tre intere puntate di Nessun Luogo Lontano. Quest'oggi vi parlo di altri dossier. Ci torneremo sicuramente la settimana prossima. Di cosa parliamo oggi, però, ce lo racconta la nostra copertina. Il mio nome è Martin Aspen e lavoro per la Typhoon Investigations. Ho qualcosa da dire su Hunter Biden e i suoi legami col governo cinese. Allora, dottore, nei registri nazionali non è stata trovata traccia della sua identità. Niente riguardo al passato. Sono il signor Nobody. Un uomo che non esiste. We've just learned that Joe Biden has been blatantly lying about his involvement in his son's corrupt business dealing. Non si sa chi sia il signor Nobody, non lo sa neanche lui. This is a big smoking gun. We are under attack. Svegliarmi! Così 90 secondi, abbiamo provato più che a raccontare ad alludere al tema di quest'oggi, una tegola che si sta per avventare sui Biden, su Joe Biden, a 4 giorni dall'importante appuntamento elettorale, anche se è vero che almeno 80 milioni di statunitensi hanno già votato, più della metà di chi esercitò il voto nel 2016, pensate. I Dem peraltro adesso stanno chiamando all'ultimo rush finale, con una situazione come sempre particolarmente complessa quando si parla di Stati Uniti. 5 milioni di nativi americani per varie ragioni non voteranno mai. Le notizie dell'economia, i risultati del trimestre vanno molto bene, Trump che gongola, Biden che continua a fare i suoi comizi cercando di rispettare la distanza, il distanziamento fisico, Trump che sostanzialmente passa sopra a questa pratica. Quindi mancano 4 giorni e al di là di quello scandalo del rilevato, raccontato al New York Post, e ci torneremo, c'è un altro molto molto importante che parte da un nome. Lui si chiama Martin Aspen, è un esperto di sicurezza svizzero, è lui che ha collaborato, ha redatto e diffuso un rapporto bomba sulle relazioni fra i Biden e altri esponenti del Partito Comunista Cinese, nonché alcuni imprenditori di Pechino. Biden si sarebbe arricchito grazie a relazioni privilegiate con l'establishment cinese. Il rapporto, come immaginate, è scottante e promette di scaldare questi ultimi 4 giorni di campagna elettorale. In gioco, evidentemente, al di là dei possibili reati commessi, non c'è soltanto la credibilità politica della famiglia, ma anche in proiezione la sicurezza nazionale. Però non vi ho detto una cosa. Martin Aspen non esiste. E il suo rassicurante, bonario sorriso nelle foto che circolano in rete non è solo finto, è stato creato da un'intelligenza artificiale. Di Martin Aspen e di questo scandalo parleremo tra pochissimo. Prima però fatemi fare un passo indietro, perché alcuni di voi ci hanno scritto nei giorni scorsi: tornate a parlare dello scandalo di Hunter Biden e soprattutto di quel computer e di quelle email rivelate dal New York Post che inchioderebbero le loro responsabilità, alle sue responsabilità, il figlio di Joe Biden. Buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano a Daniele Raineri del Foglio. Daniele, buongiorno, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a voi. Allora, proviamo a ricapitolare in 60-70 secondi massimo quello che è il caso Biden e poi proviamo a analizzare quelli che sono innanzitutto i fondamenti giornalistici di questo scoop e poi le conseguenze politiche. Sentite. Nel contesto delle elezioni presidenziali, prendete un negozio di elettronica e il figlio del candidato democratico alla Casa Bianca. Aggiungete mail sospette quanto basta, shakerate il tutto con un tabloid newyorkese e guarnite infine con foto esplicite. Ecco servito l'Huntergate. Stando a quanto riportato dal quotidiano The New York Post, nell'aprile 2019 una persona non meglio identificata avrebbe portato un computer a riparare in un negozio del Delaware, stato natale della famiglia Biden. Dentro al PC, il proprietario del negozio avrebbe trovato delle mail risalenti al 2015 che proverebbero pressioni fatte da Joe Biden, all'epoca vicepresidente, sul governo di Kiev. Obiettivo? Rimuovere un procuratore impegnato in indagini su una società energetica ucraina, la Burisma, nel cui consiglio di amministrazione sedeva Hunter Biden, il figlio del vicepresidente degli Stati Uniti. La grande mole di dati recuperata includerebbe anche un video che mostra Hunter fumare crack, oltre a numerose immagini sessualmente esplicite. Il New York Post ha inoltre pubblicato un documento ufficiale datato dicembre 2019, dove si legge che il computer è stato sequestrato al negoziante dall'FBI. Il proprietario del negozio avrebbe però fatto una copia dell'hard disk passandola al consigliere per la sicurezza informatica della Casa Bianca, Rudy Giuliani, che a sua volta ha informato il tabloid newyorkese portando la vicenda all'attenzione del grande pubblico lo scorso 14 ottobre. Un attacco mirato al candidato democratico montato ad arte o efficace giornalismo investigativo? Ma soprattutto, riuscirà l'Huntergate ad incidere sulle imminenti elezioni? Daniele Raineri, uno scoop o una bufala, oppure qualcosa a metà? Guarda, innanzitutto bisogna dire che il New York Post è un tabloid, quindi è un giornale che non si preoccupa della credibilità, quindi pubblica un po' su quello che gli passa, no? Eppure anche in questo tabloid i due giornalisti a cui è stata affidata la storia, Rudy Giuliani, si sono rifiutati di firmare con il loro nome questo pezzo, perché hanno capito benissimo che non c'era credibilità in quello che stava passando loro Rudy Giuliani. Sì. E tant'è che hanno dovuto trovare altre due firme, perché a New York Post erano disperati, e hanno messo le firme di due giornaliste che non avevano mai scritto prima, anzi una non aveva mai scritto prima, l'altra ha scoperto il giorno dopo che la sua firma era stata messa sotto il pezzo. Sì. Perché non c'è credibilità? Perché Rudy Giuliani fa una cosa che, se vuoi distruggere il candidato a delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, non puoi permetterti di fare, ossia non fa vedere a nessuno questo laptop, non fa vedere a nessuno, anzi per esserti precisi, la sua copia dell'hard disk su cui ci sarebbero tutte queste informazioni compromettenti. Sì. Lui in pratica dice: fidatevi di quello che vi dico. Sì. E al New York Post lui ha passato soltanto le foto di queste email che dovrebbero incriminare i figli di Joe Biden. Ma come sappiamo, delle foto non valgono nulla. Anch'io posso fare delle foto di una mail con sopra scritto Hunter Biden, Joe Biden, e poi scriverla io. Insomma, non ha nessun valore una prova di questo tipo. Certo. Questa è la ragione per cui Rudy Giuliani non lo sapeva, ma questo materiale era stato passato in contemporanea anche al Wall Street Journal, che è un giornale molto conservatore, a cui non piacciono i democratici, però molto più credibile. E il Wall Street Journal, con lo stesso materiale, alla fine non ha fatto nulla, non ha fatto uno scoop come il New York Post. Anche loro, diciamo, si sono rifiutati di abboccare a questa storia. Perché dico abboccare a questa storia? Perché ci sono tantissime cose, oltre a queste che ho appena detto, che non tornano. Per esempio, Rudy Giuliani aveva il materiale da dicembre e ha aspettato fino a ottobre per farsi avanti. Questa è una tipica tattica di disinformazione. Sì. Perché? Perché sai benissimo che in 14 giorni non c'è il tempo di verificare che cosa è vero, che cosa è falso. Tu scarichi, diciamo così, sulle spalle del getti in pasto al pubblico una mole enorme di messaggi, foto, tutto quello che vuoi. Non c'è il tempo per decidere che cosa è falso, che cosa è vero, però intanto hai spancato l'avversario. Quando poi finalmente si capisce che cosa è successo, ormai sono passati mesi e non conta più. E quindi, diciamo, ha voluto fare quella che in America chiamano l'October Surprise, ossia l'elemento, la sorpresa che arriva a ottobre, poco prima delle elezioni presidenziali, e travolge la corsa elettorale. Sì. E però non ha funzionato, non ha, per ora almeno, non c'è stato questo effetto micidiale contro Biden. State ascoltando la voce di Daniele Raneri del Foglio. La sua carriera ha un piede, diciamo, negli Stati Uniti, un piede in Medio Oriente. Ricordo, è stato nostro ospite quando abbiamo parlato di QAnon, quando abbiamo parlato di accelerazionismo. Ha sempre uno sguardo molto attento su ciò che accade negli Stati Uniti. Un po' di dimensioni per i nostri ascoltatori: il New York Post, il tabloid a cui faceva riferimento Daniele, è un giornale che conta circa 400.000 copie di distribuzione, di proprietà di Rupert Murdoch, che lo ha acquistato la News Corporation nel 1976, un tabloid molto aggressivo anche nei toni, molto popolare. Oltre agli articoli sulle presunte mail di Hunter Biden, il Post ha pubblicato dozzine di articoli sulle ricadute del suo scoop, con particolare attenzione ai tentativi di Facebook e Twitter di censurare il giornale, limitando o bloccando l'accesso all'articolo del Post. E questo è un altro aspetto interessante anche nella psicologia di quella fetta di pubblico a cui si rivolge evidentemente il New York Post, perché la censura da parte di Twitter e Facebook, invece di funzionare come campanello d'allarme, diventa un'incredibile riprova che il New York Post evidentemente ha pubblicato la realtà. Detto ciò, Daniele Raneri, può spingere qualcuno, uno scoop come questo, a cambiare, scoop tra virgolette evidentemente, a cambiare la propria intenzione di voto? Si dice che se una menzogna viene ripetuta tre volte, alla fine diventa verità. Da quello che ho visto io, da quando è saltato fuori questa storia, che era il 14 ottobre, la base di Trump, quelli che voterebbero Trump per qualsiasi cosa facesse, ci crede in modo cieco, anche se molti trumpiani non sanno dire esattamente cosa c'era dentro questo hard disk. Ancora adesso certo. non c'è un'accusa precisa, nessuno riesce, ci sono delle parole incriminanti o una foto in particolare che incrimina Hunter Biden, e tantomeno c'è un nesso con Joe Biden, quindi non sta funzionando. Però comunque lo chiamano il laptop dell'inferno, quindi un hard disk che sarebbe pieno di qualsiasi nefandezza. Sì. Sull'altro schieramento c'è stato un processo in questi anni di immunizzazione, per cui una cosa che viene da Rudy Giuliani, che va in Ucraina a cercare prove contro Hunter Biden, poi torna in America, poi si tiene un hard disk per dei mesi, poi viene fuori due settimane prima, lo passa al Wall Street Journal, ma quelli non scrivono, allora lo passa al New York Post e i giornalisti si rifiutano, non lo fa vedere a nessuno perché ha paura che certo. Sa di che cosa, però non lo fa analizzare. Insomma, non è abbastanza per innescare la curiosità degli americani, che invece pragmatici come sono, vorrebbero votare su quello che interessa loro, quindi il Covid, la gestione della pandemia, l'economia e altre cose. Insomma, chi era convinto da una parte o dall'altra resta convinto, non ha spostato la lancetta e quindi diciamo è stato un fallimento come operazione, ecco. Grazie mille a Daniele Raineri, giornalista del Foglio, per aver riilluminato anche questa volta questo aspetto. Daniele, buona giornata e buon lavoro, alla prossima. È interessante, vi cito questo rapporto rapporto pubblicato dal Berkman Klein Center for Internet and Society di Harvard. In questo rapporto sono state analizzate più di 55.000 notizie online, 5 milioni di tweet, 75.000 post su pagine Facebook pubbliche tra marzo e agosto. Si è scoperto che la maggior parte dei picchi di copertura mediatica e di attività sui social media riguardanti le elezioni presidenziali americane sono state guidate dallo stesso Trump, tramite ovviamente il suo account Twitter, i briefing con la stampa o le apparizioni sulla rete Fox TV. E Trump ovviamente su questo aspetto ha battuto molto, intendo sull'affare Hunter Biden. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Vera o bufala che sia, oggi puoi mediaticamente distruggere qualsiasi essere umano presente sulla faccia della terra, così la sconsolata affermazione di Gianluca, che scrive al 349-238-6666. Qualcuno ironicamente, che bivelli questi americani, per fare magagne per di più molto rischiose utilizzano email lasciando tutto per iscritto. E chi ci crede? Così Francesco da Roma. 349-238-6666. Tra pochissimo vi raccontiamo una storia che è molto più sostanziosa e forse sostanziata. Potrebbe davvero costituire uno scivolone dell'ultimo miglio per i Dem e per i Biden. E come vi anticipavo, il tutto parte da un signore che si chiama Martin Aspen, che ha pubblicato un rapporto, 64 pagine, che potrebbero davvero mettere alla corda i Biden, solo che il signor Martin Aspen semplicemente non esiste. Ascoltiamo la borsa e poi vi racconto questa strana storia. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. A 4 giorni dall'appuntamento elettorale americano vi stiamo raccontando di 2 dossier che stanno scaldando questi giorni restanti della campagna elettorale. Benché, come stava trasmettendo un secondo fa la CNN, 84 milioni di americani hanno già votato con il voto anticipato. I democratici, che chiedono un ultimo rush finale proprio per paura di ritardi in questo senso, e i Trump e Biden, che si concentrano in particolare sulla Florida, che è uno stato chiave importantissimo. Proprio in un recente discorso Joe Biden ha esattamente usato queste parole: stato chiave, siete voi che deciderete se vinceremo o no, e ha detto ai suoi elettori: se ce la facciamo qua, allora è fatta. Molti ascoltatori al 349-238-6666 fanno dei parallelismi con quella che è stata anche la recente politica italiana, di tentativi di dossieraggio, di calunnie, di inchieste montate ad arte. Non voglio certo entrare in quello che non è assolutamente un mio terreno, evidentemente, di elezione né di competenza. Qualcun altro invece fa dei confronti con le vecchie presidenze, con quella di Obama. Un ascoltatore: è abitudine americana nascondere le cose, i ricordi di un certo Obama che non fece vedere Bin Laden morto, ma se ne vantarono molto. Beh, se per questo lo stesso Trump ha messo in dubbio che Bin Laden fosse stato ucciso, però nemmeno il corpo di al-Baghdadi è stato mostrato, e quello è dovuto all'amministrazione Trump, giusto per correttezza. Allora, vi ho parlato di un altro dossier che ha a che fare con questo Martin Aspen. Ricapitoliamo questa complessa storia in 90 secondi e poi ne parliamo con l'ospite. Che cos'è l'affare Boei Harvest Rosemont? E perché potrebbe danneggiare Hunter Biden, il figlio del candidato Joe Biden, influenzando le elezioni presidenziali americane? È una storia di affari tra Washington e Pechino, di sospetti e di influenze. Una storia complessa e ricca di colpi di scena. Tutto inizia la scorsa settimana con la pubblicazione di un dossier di 64 pagine intitolato Project Time. Il personaggio chiave si chiama Christopher Boulding, è un esperto di affari cinesi ed è professore associato alla Fulbright University del Vietnam, dopo 9 anni di insegnamento a Pechino. Boulding dice di aver ricevuto il dossier da un ricercatore verso il quale nutre assoluta fiducia, del quale nasconde il nome per proteggere l'incolumità. Nel rapporto che lo stesso Boulding ha verificato, si ricostruiscono almeno 7 anni di rapporti tra Hunter Biden e la Cina, con affari tra il figlio del candidato alle presidenziali e aziende vicine al governo di Pechino. L'accusa è esplicita. Con un investimento da soli $400,000 nella società chiamata BOI, Hunter Biden si è assicurato un guadagno da $50 milioni, denaro garantito dal Partito Comunista Cinese in cambio di influenza nei confronti del padre. Il dossier è stato attaccato da media americani come NBC, che hanno dimostrato come Martin Aspen, presunto autore del rapporto, sarebbe solo un profilo internet fittizio, costruito da un'intelligenza artificiale. Abbiamo creato Martin Aspen per proteggere l'identità di chi ha creato il rapporto, si difende Boulding. Ma il contenuto del dossier è assolutamente autentico. E così, sintetizzata e ricapitolata in 90 secondi questa intricata vicenda, alla quale aggiungo solo un paio di note di colore, perché se andate su Twitter, andate a cercare il profilo di Martin Aspen, quello che corrisponde a chiocciola Typhoon Invest One, trovate quella foto rassicurante cui facevo menzione proprio a inizio trasmissione, che appunto sarebbe una foto del tutto fasulla e lo stesso account sarebbe legato all'attività di un'intelligenza artificiale. Tra i suoi followers, e questo è interessante, parlo dei followers di Martin Aspen, che non sono tantissimi, c'è un altro Martin Aspen che corrisponde alla chiocciola Martin _ Aspen, ma quello che è interessante è la biografia che viene sottolineata. Alla fine, alla former Bloomberg columnist, former associated professor, eccetera, eccetera, c'è scritto artificially intelligent, artificialmente intelligente, e questo lo trovo una nota ironica notevole. Ancora più interessante, giusto per chiudere con un sorriso questa introduzione al tema, al secondo tema di oggi, c'è un altro account che sempre tra i followers di Martin Aspen, che si chiama Mark Aspen e esordisce la sua biografia con intelligence expert, chiudendo con definitely a real person, cioè assolutamente una persona reale. Buongiorno e ben ritrovato anche Antonio Talia, uno dei nostri autori. Antonio, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Giampaolo a tutti gli ascoltatori. Allora, anche se Martin Aspen è un profilo costruito ad arte per diffondere adeguatamente lo scottante rapporto che il professore di cui raccontavamo parla, che cos'è che stona? Allora, abbiamo un rapporto vero, abbiamo un account Twitter che però è stato costruito artificiosamente, tu hai letto quel rapporto, che idea ti sei fatto? Sì, allora, innanzitutto secondo me va detto che nelle ultime ore questa vicenda si è ancora ulteriormente sviluppata e è diventata un po' più ingarbugliata. Prima di tutto perché l'università per la quale lavora il professor Boulding, che appunto è stato uno di quelli che hanno diffuso il rapporto, cioè la Fulbright University del Vietnam, ha diffuso una nota nella quale sostiene che sostanzialmente il professor Boulding non lavora più per loro da settembre. Quindi si sono dissociati dalla diffusione sostanzialmente di questo dossier. E poi c'è Boulding nel diffondere questo rapporto ha anche fatto capire a un certo punto che il rapporto sarebbe stato commissionato da una persona ben specifica. È un miliardario, è una figura molto importante per Hong Kong, si chiama Jimmy Lai, ne abbiamo già parlato altre volte, certo. Sia nessun luogo lontano. Jimmy Lai è sostanzialmente un miliardario e tycoon dei media di Hong Kong, smaccatamente anti-Pechino, è un miliardario che scende in piazza con i manifestanti pro Hong Kong. Il professor Boulding ha detto che era solo Jimmy Lai a commissionare questo dossier. Pochissime ore fa Jimmy Lai dal suo account Twitter ha fatto sapere che non ha commissionato questo dossier. Ah. Quindi la storia diventa sempre più ingarbugliata. E soprattutto, Antonio, mi permetto di interromperti, sembrano, come dire, evaporare anche quelli che sono i fondamenti di qualsiasi buon giornalismo e ricerca, perché se chi diffonde le notizie non è una persona fisica, se il professore che lavora per questa prestigiosa università vietnamita a un certo punto viene sconfessato dall'Ateneo stesso, poi resta da chiedersi che cosa resta di solido nel rapporto. Sì, abbiamo provato a chiedere allo stesso Bolding. Abbiamo rintracciato il suo numero di telefono, ma non risponde. Evidentemente il momento non è dei più semplici per Christopher Bolding. Però abbiamo appunto dato uno sguardo anche al rapporto. Sono 64 pagine, sì. L'abbiamo letto, riletto, e effettivamente ci sono gli elementi interessanti. Che cosa sostiene questo rapporto? Sostiene che Hunter Biden, come abbiamo sentito, avrebbe dei collegamenti molto diretti con il governo cinese. La società Bohai Harvest Rosemont, nella quale Hunter Biden ha effettivamente investito, che cosa emerge dal rapporto? Che è controllata da Bank of China. Bank of China è una delle banche più importanti di tutta la Cina, e effettivamente Bank of China è controllata da chi? Dal Ministero delle Finanze cinese. Ma non solo, c'è anche un altro elemento. Gli incontri che Hunter Biden ha condotto a partire dal 2013 e che lo hanno portato nel 2017 a investire in questa Bohai Harvest Rosemont, sono stati sostanzialmente resi possibile da un think tank che si chiama Chinese People's Institute for Foreign Affairs. Che cos'è? È un think tank alle dirette dipendenze del Ministero degli Esteri di Pechino e che esiste per condurre relazioni con influenti personalità straniere, senza però un intervento diretto del governo. Quasi un'agenzia governativa che permette di fare affari per interposta persona, se ben capisco. Sì, non solo, ma anche appunto per approcciare delle personalità straniere tramite appunto un ente che fa parte del governo, ma contemporaneamente si dimostra indipendente. In tutto l'ambiente, diciamo, coloro che si occupano di Cina, nell'ultima settimana da quando è venuto fuori questo rapporto, si è effettivamente dibattuto molto, e delle autorità, come penso a Bill Bishop e altri, sostengono che effettivamente qualcosa di quantomeno inopportuno nei rapporti tra Hunter Biden e la leadership cinese effettivamente c'è. Ci sono dei dubbi sulla tempistica di tutta la storia, perché se davvero, come dimostra il rapporto e come dimostrano una serie di documenti che vengono citati, Hunter Biden ha iniziato a interessarsi a questa società nel 2013, ma poi è entrato con un investimento di $400,000 nel 2017. Quell'investimento, per ottenere il 10% della società, era già un investimento a un prezzo assolutamente stracciato. Sì. Quindi l'interrogativo è... questo prezzo di favore è stato corrisposto perché si sperava che in qualche modo Hunter Biden potesse intervenire nei confronti del padre? E questa è la domanda. Con questa domanda io lascio i nostri ascoltatori solo temporaneamente. Attenzione, andiamo sulle strade italiane e poi riprendiamo questo strano dossier che vi stiamo raccontando. Qui nel suo luogo lontano qualcuno lo definisce a metà tra Minority Report e The Manchurian Candidate. Così Francesco, e credo proprio che abbia ragione. Viabilità, state con noi. Nessun luogo è lontano. Ancora una volta ben ritrovati. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano continua a raccontarvi lo strano mistero del signor Martin Aspen. 4 account Twitter, un profilo creato probabilmente da un'intelligenza artificiale per diffondere cosa? Un dossier scottante che va dritto al cuore del Partito Democratico statunitense andrebbe a inchiodare Hunter Biden a una serie di precise responsabilità. L'accusa è molto semplice: con un investimento da soli $400,000 nella società chiamata Bohai, Hunter Biden si sarebbe assicurato un guadagno da $50 milioni, denaro garantito dal Partito Comunista Cinese in cambio di influenza nei confronti del padre. Con Antonio Taglia, che come sapete è esperto di Cina e si è letto queste 64 pagine di rapporto, stiamo provando a leggere tra le righe di questo rapporto stesso. Antonio, stiamo parlando di potenziali reati o semplice opportunità politica? Cioè, quella rivalutazione dell'investimento ha dei connotati che giuridicamente costituiscono reato? No, sembra più una questione di opportunità. Da quello che si legge nel rapporto, il rapporto allude ma non porta nessuna pistola fumante, per utilizzare questo termine. Sì. Sicuramente è inopportuno per il figlio di un candidato alle elezioni presidenziali americane intrattenere dei rapporti di questo tipo con la leadership di una nazione che è comunque un rivale strategico, se non il principale rivale strategico degli Stati Uniti. Però appunto non sembra configurarsi nessun reato. Poi ci sono tutta una serie di aspetti del rapporto che rimangono nell'ambiguità. Per esempio si dice sì, però Joe Biden ha un rapporto diretto con Yang Jiechi, che è l'ex ministro degli esteri cinese, l'ex ambasciatore cinese negli Stati Uniti e oggi nel Politburo, e viene visto come uno dei principali artefici dell'attuale politica estera cinese. Sì. Ma appunto sembra di essere nella normale dialettica fra due funzionari di due stati. L'altra questione che rimane molto in sospeso è che questo rapporto cita delle fonti anonime che vengono chiamate fonte A, fonte B e fonte C. Non vengono ovviamente esplicitate le loro identità. Fonte A, per esempio, dice che Hunter Biden ha un accesso diretto al Politburo, quindi a uno dei massimi organi del Partito Comunista Cinese, ma non vengono portate le prove. La fonte B e la fonte C tirano in ballo un altro dei soci della Bohai, che è questo Michael Lin, che è un cittadino taiwanese ma che in realtà sarebbe un agente di influenza cinese. Anche qui però si rimane nel vago e non vengono portate delle prove dirette. Sì. In qualche modo è un rapporto che definisce effettivamente un clima, sì, ma non porta nulla di sostanziale. Sì. Chiarissimo. Ti interrompo, Antonio Taglia, perché c'è un aspetto che forse agli ascoltatori potrà interessare, al di là, come dire, delle relazioni economico-diplomatiche che anche il figlio di un candidato alla presidenza, un ex vicepresidente, può intrattenere. C'è una domanda che ci si fa, cioè cosa succede, Antonio, quando si entra in contatto con delle aziende cinesi o magari con delle aziende di Stato cinesi? Quanto è lontano il Partito Comunista, quanto è lontano quanto lontani sono gli organi direttivi, cioè quanto si sta trattando da pari a pari e quanto invece no? Il Partito Comunista Cinese non è mai così lontano dall'economia e sta diventando anzi sempre più importante anche nell'iniziativa privata. C'è un'intervista abbastanza recente di Wang Xiaochuan. Lui è il CEO di uno dei giganti del tech cinese, che è Suguo, e lui ha ammesso in maniera anche abbastanza candida che con la leadership di Xi Jinping si sta entrando in qualche modo in una nuova era in cui l'iniziativa privata è sempre più ridotta. Cosa ha detto Wang Xiaochuan in questa intervista? Ha detto probabilmente stiamo entrando in un periodo in cui ci verrà chiesto sempre di più di stabilire una commissione del partito all'interno delle aziende private. Le aziende private potranno, diceva Wang, lavorare con lo Stato, ma se sta nella loro natura di azienda privata di andare, di intraprendere un cammino diverso da quello dello Stato, allora con la leadership di Xi Jinping scopriranno che la situazione per loro diventerà molto più difficile che in passato. Sì. State ascoltando la voce, l'analisi di Antonio Talia, il nostro Antonio Talia, che si è letto queste 64 pagine di scottante rapporto, ha provato a passarlo ai raggi X per capire cosa c'è di sostanzioso, se si potrà tramutare questo dossier in una arma, una delle ultime ormai a disposizione in campo repubblicano, per andare a demolire, a intaccare quello che è il vantaggio per ora che i sondaggi danno a Joe Biden. È interessante un messaggio di un ascoltatore: ma voi non pensate che per l'equilibrio del mondo sarebbe meglio se Trump restasse al suo posto? Noi europei che siamo pressoché colonizzati dalla Cina, se anche l'America ritorna a fare lo zerbino cinese come anche nella presidenza Obama, siamo a posto. Al di là, secondo me, di alcuni, come dire, fuori fuoco in questo messaggio, ma il mio modestissimo parere, Antonio Talia, quasi con uno slogan, perché siamo in chiusura: come le relazioni sino-americane potrebbero cambiare in caso di avvento democratico rispetto a quello repubblicano? La leadership democratica precedente alla leadership Trump aveva lanciato un'iniziativa che era la Trans-Pacific Partnership per contenere la Cina. Questa iniziativa è stata parzialmente ritirata da Trump, anche se le ultime mosse di Pompeo invece tornano in quella direzione. È evidente che gli Stati Uniti sanno che la Cina è il principale avversario strategico. Non credo che ci sarà un cambiamento sensibile, sia che martedì prossimo le elezioni americane vengano vinte da Trump o che vengano vinte da Biden. Grazie mille Antonio Talia per essere stato con noi, questa volta dall'altra parte del vetro, virtualmente evidentemente. E vorrei lasciarti anche a te, Antonio, questo venerdì con una riflessione per il weekend, perché dopo aver sudato parecchie ore su quel rapporto di 64 pagine, un ascoltatore, Claudio da Torino, ci scrive: i giornalisti contro Trump sono tutti dei fenomeni veritieri, gli altri sono dei bugiardi. Bontà tua, Antonio, coraggio, buon weekend e buon lavoro, grazie Antonio. Ciao Gianpaolo, a tutti gli ascoltatori. E poi invece voglio lasciarvi con un altro messaggio che è veramente, mi riempie di gioia immensa, perché evidentemente dopo essere stato tacciato continuamente anche quest'oggi di essere contro Trump, c'è un ascoltatore che dice: ho la netta sensazione, ascoltando anche la sigla iniziale, che questa trasmissione sia filo trumpista, e io trovo la voce di Trump assolutamente sgradevole, per cui gentile ascoltatrice o ascoltatore, si stringa nelle spalle, perché proprio lui ci dà il commiato anche quest'oggi. No, no, no, no, no. Oh, è così, è anarchia totale in regia, ma è venerdì e quindi ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo, a voi che siete stati all'ascolto. Domani ore 10 il meglio di, e poi ci risentiamo lunedì. Buon weekend da Gianpaolo Musumeci.